Buongiorno e bentrovati dopo tanto tempo, com'è il detto, no? Casa mia. Ed è così, però casa siamo noi, perché siamo la casa di Dio, ognuno di noi, ed è insieme che noi costruiamo quella che è la volontà di Dio per ogni cosa che ci sta dinanzi, come famiglia allargata della Chiesa, come opera che Lui ci affida in ogni cosa. Ed è questo stupendo poter essere chiamati collaboratori di Dio. È incredibile. Ci deve dare tanta umiltà. Ma comunque il soggetto di questa mattina, credo che in questo periodo quello che si sta facendo è proprio parlare, incentivare i gruppi in casa, perché è importante che noi formiamo famiglia stretta per essere di sostegno e di aiuto. E infatti il soggetto è proprio la cura, ma intesa come cultura del sostegno. Noi dobbiamo cambiare la nostra cultura e avere la cultura dell'adozione, perché a questo noi siamo chiamati. Noi vuol dire, tradotto vuol dire, ognuno, età, sesso, posizione sociale, qualsiasi cosa, situazione spirituale, stai bene, non stai bene, sei chiamato ad adottare. C'è un passo stupendo nella parola di Dio che ci illustra questo in una maniera incredibile. E se noi parliamo di padre e figlio, di chi parliamo? Della Bibbia, Eh sì, vabbè, ma io sto diventando duro d'orecchio, quello è il fatto, non è colpa vostra, è colpa mia, lo so, però di chi parliamo? Se parliamo di padre e di figlio, mi date un nome e un cognome, Buonanotte, facciamo notte qui. Bellissimo, ognuno è così, hai ragione, ognuno che hai detto, ogni cosa che hai pensato, ogni cosa che hai, e va benissimo. Però parliamo di Paolo e Timoteo, e dici, come faccio io a entrare nella testa tua? Ma lì è proprio l'appartenenza, il capirsi, va bene, telepaticamente, no? No, ma è proprio questo l'esempio più grande nella Bibbia, pratico intendo, non più grande nel senso di importanza, ma proprio della praticità di Paolo e Timoteo. E infatti nella seconda lettera a Timoteo Paolo scrive nel capitolo 1 il verso 3, dice: ringrazio Dio, è scritto, no? È così bello, ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, non bene, male, non lo so come lo servo, ma con pura coscienza, con semplicità, con dedicazione, con amore, con trasporto. E poi aggiunge, ascoltate, e poi aggiunge, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte. Non ha dell'incredibile? Cioè Paolo qui sta dicendo a Timoteo, Timoteo è suo figlio, ma è suo figlio Timoteo? No, lo ha adottato. Infatti nel verso 2 dice: a Timoteo mio caro figlio. Non è suo figlio naturale, ma lo ha adottato spiritualmente, se ne è preso carico, se lo porta con sé sempre. Vedete, qui sono lontani, sta scrivendo una lettera a Timoteo per trasmettere il suo cuore, e la prima cosa che gli dice qual è: io mi ricordo di te. E questo vuol dire, non è sporadicamente, cioè lo ha sempre nel cuore, lo porta sempre con sé, ricordando che cosa? Semmai ricordando che cosa sta facendo, che cosa sta dicendo, dove sta andando, perché lo sta facendo, e quindi interessandosi spiritualmente. E poi aggiunge dicendo: regolarmente. Lui si è preso un impegno, Paolo, si è preso un compito di figliolanza, e noi conosciamo questi sentimenti per i molti padri che ci sono in mezzo a noi e le molte madri, e cioè quello: non abbandoni mai tuo figlio, anche quando tuo figlio ha 70 anni, che cosa dici? Il mio bambino. È incredibile, questo mostra quanto noi siamo legati. Paolo lo fa spiritualmente, ed è quello che sta chiedendo a noi, di formare in questa maniera gruppo. Dice: ricordandomi continuamente. Ogni cosa, semmai è molto semplice, vedi, tu stai mangiando, allora ti chiedi: e Timoteo starà mangiando adesso? Tu stai andando a letto, dici: beh, mo va a dormire pure lui, mo lo benedico. È incredibile questa relazione profonda e costante. E poi, come dice, quando ha detto mi ricordo di te regolarmente, e poi ecco il punto, l'azione: prego per te. Quando mi ricordo? Giorno e notte, ogni momento che lui compie qualcosa, si paragona o si accoppia a Timoteo e prega per lui, perché lui sta facendo la stessa cosa o sta facendo un'altra cosa, ma sta operando per lo stesso Dio. Ed è questo che il Signore chiede a ognuno di noi. Prendersi cura vuol dire questo. Prendersi cura non vuol dire vedere se hai il cibo o non ha, questo provvede Dio. Ma prendersi cura è sostenere la cultura del sostegno, sostenere l'altro in tutto quello che fa. Il gruppo familiare per questo esiste. Per questo esiste, lo dobbiamo dire molto chiaramente, perché quando siamo qui, come ha fatto Antonio, bellissimo, che io amo, abbracci e baci, e poi ognuno va via e vive una settimana, ma con il gruppo puoi vivere la settimana in unità e in accordo e nel realizzare lo stesso piano. Questo è quello che il Signore chiede a noi. Anzi, c'è un esempio: Paolo, sappiamo, l'abbiamo detto, è figlio, ma non è figlio perché è adottato. E io posso dire: hai un figlio? O meglio, hai adottato un figlio? Hai preso qualcuno per cui ti prendi cura costantemente, ricordandoti giorno e notte La preghiera è l'arma più potente. Forse non lo potrai fare fisicamente, non lo potrai fare con la tua presenza, ma la preghiera è sempre lì ed è quella che porta avanti ogni nostra situazione. Noi possiamo dire, che cosa faceva Paolo? Perché erano anche lontani, vedi, gli scriveva qualche lettera. Ma il prendersi, lui si è preso molto cura, il prendersi cura di Timoteo voleva dire proprio questo, ricordarlo costantemente in preghiera giorno e notte. E a questo ha fatto di Timoteo quello che Timoteo è diventato. È incredibile, se noi ci prendiamo cura dell'altro diventa un operaio incredibile nelle mani del Signore. A me piace sempre fare in modo che noi visualizziamo quello che viviamo e vedere nella pratica quello che Paolo ha fatto per Timoteo. Non ha avuto tanto tempo di insegnare, e ha insegnato, non ha avuto tanto tempo di addestrarlo, ma ha addestrato, faceva tutte queste cose e non le faceva. Ma quello che faceva di più era proprio quello di Mosè. In 2 Timoteo 2, il capitolo dopo, al verso 2 dice, ecco qui mostra proprio quello che era l'azione di Paolo. Le cose, lo conosciamo molto bene, sono tutti passi molto conosciuti, le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Le cose che hai visto in me, dice un'altra versione, le cose che mi hai visto fare, le cose che mi hai visto o che hai sentito dire di me, trasmettile. Che cosa significa questo? Che qualsiasi è la mia posizione, qualsiasi è la mia situazione attuale di credente, di figliolo di Dio, che sto bene o che sto male, che sono da poco convertito al Signore o che sono da anni e che ormai sono al declino, qualsiasi è la nostra situazione, abbiamo un solo impegno: quello che abbiamo visto lo dobbiamo trasmettere. Lo dobbiamo trasmettere. Quindi non c'è scusante, ma io sono da poco, ma io adesso non sto bene, ma io adesso ho una crisi. La preghiera, uguale alla parola, è un'arma a doppio taglio. Perché quando tu preghi per l'altro, stai rinforzando te stesso. Come funziona? Non lo so, ma il fatto è che funziona. Incomincia a pregare per l'altro e vedi che poi tu ti senti più rilassato, ti senti più rinforzato, ti senti più in pace. È incredibile come funziona, ma funziona perché è un'arma a doppio taglio. Interessati dell'altro. La parola di Dio non dice queste cose tanto per dirle, ma perché è un'arma a doppio taglio. Ritorniamo al nostro un esempio di Paolo e di Timoteo. Che cosa faceva Paolo? Beh, io l'ho voluto raffigurare tramite una storiella che si conosce, forse la conosciamo già, gira, non fa niente, però è importante viverla. Un padre e un figlio. Allora, il figlio, noi conosciamo le crisi esistenziali dei nostri figli, no? E tutto quello che faccio, perché lo faccio specialmente quando vanno a scuola? E perché devo andare a scuola? Che cosa mi serve quel pezzo di carta? E così, questo figlio aveva questa crisi esistenziale, che cosa devo fare, che valore ha la mia vita, quello che faccio, a che serve quello che penso, a che serve. Allora il padre andò fuori e prese una pietra, è pesante, prese una pietra e che cosa fece? La spaccò. in tre pezzi. L'ha divisa in tre pezzi. Prese uno di questi pezzi. Vedete come brilla, è anche bella. E gliela diede al figlio. E insomma, sai, quando il padre dà un bene così. La pietra è... E gli disse, prendi questa pietra, vai al mercato, metti una piccola bancarella e poggiala sopra. Se si avvicinerà qualcuno e ti chiede quanto costa, tu non gli devi dire una cifra. Devi fare quello che noi siamo abituati a fare quando qualcuno ti chiede qualcosa. Qual è il gesto che noi facciamo quando qualcuno ci chiede qualcosa? Si avvicinò una signora e si era innamorata di quella pietra perché la vedeva luccicare, la vedeva bella, la vedeva... E allora chiese al ragazzo quanto costa la pietra e lui non disse niente, alzò la mano e disse... Ah, 5 euro? Prese i 5 euro e glieli diede. Allora il ragazzo corse dal padre e dice, ma date 5 euro per la pietra che tu hai spaccato. Che cosa successe dopo? Prese l'altro pezzo della pietra e gliela mise di nuovo in mano al figlio. Mo, il figlio era già più... Disse, capite, mo va di nuovo al mercato, sai, mo questo posso vedere di... Dice, devi andare a un'oreficeria e la devi mostrare. Il ragazzo, visto il successo della prima, andò all'oreficeria, con timore, vai dal dove tutto è oro, dove tutto è diamanti, io vado con una pietra. E mostrò la pietra. L'orefice, quando vide la pietra, disse, ma questo è un rarissimo pezzo che io cercavo da tanto tempo. Quanto costa? Che cosa fece? Ah, vuoi 500 euro? Prese 500 euro e glieli dette subito. Lui volò dal padre a dire, quel per una pietra, per la pietra che tu hai raccolto e che hai dato a me, mi ha dato 500 euro. Il padre non disse niente. Prese l'altro pezzo di pietra e glielo diede. E disse, adesso devi andare invece a un museo. E quando entrò nel museo subito incontrò il direttore. Disse, che sei venuto a fare? E gli mostrò, lui non doveva parlare niente, non doveva dire nemmeno una parola, gli mostrò la pietra. Quando il direttore del museo vide la pietra disse, ma tu lo sai che questa è qualcosa di eccezionale che non si trova da nessuna parte. Io te la voglio pagare quando vuoi. Quale fu il segno che fece? Ah, vuoi 5.000 euro? E gli diede 5.000 euro. Voi potete capire che poi quel figlio tornò dal padre e disse, cioè quello che era incredibile era che era una pietra che lui l'aveva vista prendere, era senza valore, era senza nessun significato e ha preso tutti quei soldi. Allora il padre parlò e gli disse molto semplicemente, il valore di quello che tu hai è il valore di quello che tu fai dipende da dove e con chi investi. Il valore di quello che io ho, e può essere molto poco. Chi di noi si sente un Superman spirituale? Ognuno di noi fa a gara a buttarsi più giù possibile, e di più, facciamo pure a gara a buttarci l'un l'altro più giù, eh? Non ci sentiamo degni, non ci sentiamo capaci, non ci sentiamo all'altezza, ma il valore di quello che tu hai, quel poco che hai, da poco anche che conosci il Signore, o da molto, o da quello che fai, quel poco che puoi fare e che desideri fare, acquista valore se lo investi. E in chi lo investi? Ecco la cultura dell'adozione. Non ha importanza quanto io ho, non ha importanza quanto io faccio, importante è se lo investo nell'altro. Ed è quello che Paolo ha fatto con il suo figlio Timoteo. Ha investito in Timoteo, un giovinetto, lo sappiamo, si dice fra i 15 e i 17 anni, eppure che cosa faceva? Mostrava quello che doveva essere e fare e lo mandava, e lo ha mandato a stabilizzare chiese, e lo ha mandato a nominare anziani, e lo ha mandato ad annunziare l'Evangelo. Ravviva il dono che c'è dentro di te, dice subito dopo. Andate a leggere questa lettera, è stupenda, è bellissima, la vedi che è come una lettera a te, a me, direttamente, personalmente. Attiva il dono che Dio ti ha dato. Dice, chi è che ha un dono, un carisma, alzi la mano. Io credo, vedi, il timore, la paura non ci fa, non ha importanza quello che hai. Non ha importanza quello che fai, quel poco ti permette di raggiungere l'obiettivo di Dio, ti permette di arrivare dove il Signore vuole. Allora ecco perché noi dobbiamo investire, dobbiamo adottare. In che cosa? In che cosa stai investendo? Perché vedete, io posso dire, non ho molto, ci sono belle storie nella Bibbia, non ho grandi doni, non ho grandi capacità. Vi ricordate Mosè? Se noi andiamo a prendere Mosè, Esodo capitolo 4, andiamo a prendere Mosè, si dice che fosse balbuziente, che non riusciva a parlare alla maniera migliore. E il Signore lo mandava, E qual è la parola di tutti quanti noi quando il Signore ci manda qualcosa? È proprio a me. Dici, ci sono tanto, proprio a me. E la stessa cosa disse anche Mosè. Dice, ma quelli non mi crederanno, io devo andare là, non mi crederanno, anzi con quel che ho combinato sarà peggio di Dio. E il Signore gli disse, che cosa hai nelle mani? Che cosa aveva nelle mani? No, ma realmente che cosa aveva nelle mani? Aveva il bastone, ma che cos'era il bastone? Che cosa faceva Mosè fino al momento prima? Pastore, pascolava le pecore, quindi il bastone era la sua attività, con il bastone faceva ogni cosa. Che cosa sta dicendo il Signore a te e a me? Che cosa hai nelle mani? L'attività che svolgi, quello che sei, quello che stai facendo, non ha nessunissima importanza. Usa quello che hai. E sappiamo, tramite quel bastone, tutto quello che è successo. Anzi, c'è una storia più bella ancora, ed è quella dei talenti. 10, 5, 1. Quello con uno, che cosa fece? Lo sotterrò per timore, per paura. Quante volte ho sotterrato quel talento? talento centesimo che io avevo in tante occasioni per paura, per timore. Mettilo nelle mani di Dio e porta un frutto incredibile. C'è l'altra, ci sono altre storie a riguardo, ma tutti mostrano che quello che hai è importante. Non è importante quello che hai, ma è importante quello che hai se lo metti a disposizione e nelle mani del Signore. Quello porta molto e molto frutto. Così possiamo vedere come Paolo, ritornando, ha adottato Timoteo. Ha adottato solo Timoteo? Datemi qualche altro nome. Tito. Adottate Tito. Lui ha formato una squadra, un gruppo in casa, che curava costantemente con la preghiera e Silvano, e ce n'erano tanti altri che lui, se andiamo a leggere lo vediamo, faceva gruppo curando, prendendosi cura e mandando. Forse l'esempio ancora più bello è quello di Gesù, che è molto semplice, anche se noi diciamo ma è Gesù il figlio di Dio, ma è molto semplice. Lui ha iniziato la sua attività sulla terra con due azioni molto semplici e molto specifiche. La prima qual era? Predicava, annunziava la verità, annunziava il regno di Dio. Quando lui ha iniziato predicando la parola, non di tirare indietro, di annunziare la parola di Dio dovunque ti trovi e qualsiasi cosa stai facendo, anche se sei deriso, anche se ti insultano, in questo periodo ancora di più, perché vediamo che la società va sempre verso quello di demolire ogni cosa che è spirituale. Adesso l'uomo torna al centro dell'universo, andiamo di nuovo verso l'illuminismo, quelle epoche passate. Noi quello che abbiamo semplicemente lo dobbiamo dare, perché lì c'è il frutto di Dio, lì c'è il frutto di Dio. E vediamo anche che Gesù faceva un'altra cosa. Predicava, e poi le prime azioni che Gesù, proprio le prime due, le primissime due che Gesù ha fatto, quali sono state? Predicare e ha chiamato, si è formato il gruppo, vi ricordate? E dopo aver predicato incominciò a chiamare quello, a chiamare quell'altro. Quello era un gruppo in casa, e se li portava sempre con sé, e non faceva niente senza di loro. Erano facili? Forse qualcuno di cui non sentiamo dire nessuna storia, forse era un po' più facile, però alla fine tutte e 12 se ne sono scappati, va bene? Li chiamava, li portava con sé, e poi che cosa faceva? Li mandava. Erano capaci? Erano degni? Pensate solo a Pietro, ha mandato anche Giuda. E Giuda ha portato tanto frutto quanto ne ha portato Giovanni, Pietro e Giacomo e tutti gli altri. Non è incredibile questo? Giuda ha portato lo stesso frutto per il regno di Dio. Che poi lui abbia fatto una fine diversa, quelli sono fatti suoi, io mi faccio i fatti miei. Perciò mostra, questa è adozione, ecco l'importanza di far parte di un gruppo. Si vive, io se lo chiedo, non per chiederlo a tutto ma solo ai capigruppo, la prima cosa che mi dicono È da quando è il gruppo che ho incominciato a fare i primi capelli bianchi. Chi lo sa perché? Certo, non è sempre semplice, ma il camminare insieme e il voler aiutare l'altro permette al regno di Dio e alla gloria del Signore di manifestarsi in questo mondo, perché proprio adesso il mondo in cui viviamo ha bisogno di te e di me, ha bisogno di Gesù, e noi siamo il mezzo per mostrare questo. Io vado verso quella che è la conclusione, ma non tirarti indietro dall'usare quello che hai, e quello che fai sottomettile al Signore, adotta. Qualcuno ti sta a cuore? Quella è un'adozione. Vedi delle capacità, dei doni o il desiderio di qualcuno di servire il Signore? Quella è un'adozione. E l'adozione comporta ricordarsi costantemente, giorno e notte, con la preghiera. Questa è l'adozione che il Signore chiede a noi, perché vedete, ognuno di noi è un'immagine, un esempio. Io posso, non voglio parlare di nessuno, ma di me stesso. Quando io ho sentito la chiamata, io la volevo sentire una chiamata, però mi sono dovuto accontentare delle cose che il Signore mi metteva davanti e viverle come chiamata. Perché? Perché il mio desiderio, il mio cuore, la mia gioia era quello di volerlo servire in ogni cosa. Non fa niente in cosa, ma servire il Signore. Avevo capacità. Dice che chi nasce tondo non muore quadrato. Allora, capacità non ne avevo e non ne ho. Ero un grande predicatore, che io ero un grande. Io usavo la parola di Dio, ho sempre usato la parola di Dio nella mia vita e quello che io vivevo. Anzi, mia moglie dice sempre: quando predichi, finisci le frasi. Non finisco mai le frasi, però io devo dire sì, quando annunzi l'Evangelo finisci le frasi, però quando sei a casa con con tua moglie, mi raccomando, non finire le frasi, perché quello è il segreto di durare a lungo nel matrimonio. E questo è detto a marito e moglie, va bene, una parola di meno costruisce tanto. Ma è vero, è vero, tutto quello che io dico è vero. Allora, perché? Perché l'ho vissuto su di me. Come sono andata avanti? Beh, semplicemente proprio il fatto di adottare. Semmai, se io ho avuto o voglio riconoscere un dono dentro di me, è quello di credere nell'altro. Qualsiasi come è, non è mai bello e grande come me, mai lo sarà, va bene? Ma com'è, quello che ha, in quello noi dobbiamo adottare. E poi credere nell'altro è affidare. Dai dei compiti. Ma dice, ma chi sono io che devo dare dei conti? Chiedigli di pregare per te. Dice, ma io sto bene, non ho nessuna malattia. Inventa una malattia. Cerca da tutte le parti, vedi, qualcosa non funziona. Specialmente, allora, se non hai nessuno, vai da un medico e vedrai che te la troverà. E affida. Affido il compito, e questo io ho vissuto, perché nel affidare, nel dare impegno, nel dare compiti, molto era il modo, dopo finisco, però devo fare un'altra cosa. Siccome mi ha detto non mi mettere in imbarazzo, io voglio dire semplicemente: ma che grande esempio è Leo, è vero? Di dedicazione e di servizio in una maniera incredibile. Dillo anche a chi ti sta a fianco, diamo una parola di incoraggiamento l'uno all'altro ogni tanto, fa sempre bene. Mo mi sono dimenticato dove era arrivato, ma stavo concludendo, non fa niente, questo è importante. Io dicevo proprio questo, era tanto il timore di sbagliare nell'affidare, perché gli altri lo sottolineano, dice: ma sei sicuro di far fare questo, di far dare, lo sotto, ma proprio in rosso e in grassetto. E io è sempre stato tanto il timore, però una cosa ho fatto, il coraggio della paura, la Totò, pregavo costantemente e prego costantemente per ogni collaboratore della Chiesa, perché questa è la nostra forza, questa è la nostra cura primaria, questa è la cura più grande. Perciò adotta, non avere timore nell'adottare, e prega, perché pregando tu stai equipaggiando, stai insegnando, stai, perché il Signore userà quello che l'altro vive come insegnamento, perché c'è dietro la tua preghiera, c'è dietro il tuo sostegno. Questo è formare gruppo. Invece di dire una parola, anche nel gruppo, come fra marito e moglie, quando predichi la parola finisci la frase. Ma quando hai rapporto, contatto, comunione con l'altro, non finire mai la frase. Perché questo crea unità e crea veramente un saper stare insieme. Perciò adotta. E io voglio fare un appello questa mattina a ognuno di noi. Vi chiederò di venire avanti, ma non pregherò per voi. C'è un altro aspetto. Le pietre. Per pregare sono andata al mare e ho raccolto tante pietre. E vi assicuro che ho pregato per ogni pietra, perché non sapevo chi la prendeva. Ho preso, e lo vedrete, ho preso piccole, ho preso talmente piccole e sottili che possono stare anche nella Bibbia. Ora io ti chiedo di venire avanti e di prendere una pietra. Ci sono grandi, ci sono piccole, ci sono belle, ci sono ruvide, comunque sono. E sopra logicamente per i miopi, io sono stato guarito dalla miopia, ma per i dimentichevoli come me, prendi una bella pietra grande e scrivi un bel grande nome sopra. Io ho fatto le prove, qualsiasi pennerello ad alcol funziona, è indelebile, non si cancella. Prendi la pietra, scrivi il nome, ne hai due, c'è anche il retro. Scrivi i nomi che vuoi sopra e continua a tenere la pietra come ricordo di pregare e intervenire. Perciò io vi chiedo adesso di venire avanti, dopo che prego, ognuno può venire avanti e prendere una pietra. Non venire avanti solo tanto per prendere una pietra, se esci fuori già li trovi. È una pietra comune, non è una pietra preziosa, e non ti azzardare ad andare alla gioielleria o lì a dire, a fare che no, te la buttano dietro, va bene? Ma è il nome che ci metti sopra, che fa acquistare grande valore a quella pietra agli occhi di Dio. Ed è quello che il Signore chiede a noi. Per quanto riguarda Mottola, se io vi lancio una pietra, romba la telecamera, allora appena uscite fuori dalla sala, raccogliete qualsiasi pietra e segnatela. Poi chiedo di vedere la pietra, quindi portatela sempre in tasca, va bene Mottola? E va bene anche a noi. Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore. Padre, a te affidiamo ognuno di noi, e sapendo che in te abbiamo il valore più eccelso che possiamo desiderare per la nostra vita e anche per gli altri. E Signore, vogliamo essere per gli altri quello che tu sei per noi e sei stato per noi. Vogliamo realizzare anche per gli altri quello che tu hai realizzato per noi, e dacci quella gioia e quella forza di poter e saper trasmettere quello che hai messo dentro di noi. Benedico ognuno veramente, oh Signore, nel nome tuo. Amen.